Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Nella comunità Sikh di Pasiano di Pordenone, incendiate nella notte le auto di due cittadini indiani. Minori violenti, la friulana Garlatti, autorità garante per l'infanzia, sia il divieto di accesso ai siti porno, ma intervenire sugli adulti di riferimento. Presto attivo anche in regione IT Alert, sistema di allarme che allerta la popolazione via smartphone, presentazione a Palma Nova. Ricognizione sui posti disponibili negli asili nido a Udine. Ad agosto ce n'erano solo per coprire metà delle richieste già presentate. Studiosi di fisica a Sappada per ragionare sui nuovi dati del CERN da tutto il mondo per un progetto sul grande acceleratore di particelle. 12:31 minuti, buongiorno da Livia Liberatore e Rita Micoli. Apriamo questa edizione del giornale radio con un aggiornamento che riguarda la cronaca. Ci sono sommozzatori dei vigili del fuoco al lavoro nel lago della Burida per recuperare un'auto notata immersa nell'acqua, forse a causa di una uscita di strada, quindi di un incidente. A bordo ci sarebbe una persona. E andiamo avanti con il giornale radio. Un'allerta a tutta la popolazione sarà quello diffuso in caso di necessità dal nuovo sistema nazionale di allarme pubblico IT Alert, presentato oggi nella sede della Protezione Civile a Palma Nova. Sarà un bip prolungato all'unisono di tutti i cellulari del Friuli Venezia Giulia, senza precedenti. C'è una data e un'ora precisa, martedì 12 settembre alle 12. Tutti, ma proprio tutti, saranno raggiunti da un messaggio di IT Alert, il nuovo sistema di allarme pubblico nazionale, e suoneranno contemporaneamente, mettendo un suono distinto, diverso da quello delle notifiche a cui siamo abituati. Obiettivo è testare l'attività di informazione e comunicazione ai cittadini in situazioni di emergenza. Niente paura, quindi, ci si attrezza per prevenire. Il solo modo per farlo consiste nel verificare se i meccanismi della prevenzione funzionano. Sul messaggio sarà scritto avviso di emergenza IT Alert. Questo è un messaggio di test del sistema di allarme italiano. Una volta operativa si avviserà in caso di grave emergenza. Per informazioni bisogna andare sul sito italert.it e compilare il questionario. Lo stesso testo sarà riportato in inglese. Cosa fare una volta che si riceve il messaggio? Leggerlo, e siccome verranno bloccate temporaneamente tutte le altre funzionalità per riportare il cellulare alle condizioni ordinarie di utilizzo, basterà toccare il dispositivo in corrispondenza della notifica per confermare la ricezione. A settembre saranno effettuati ulteriori test in altre regioni italiane. Superata la fase di sperimentazione, IT Alert permetterà di informare direttamente la popolazione in caso di gravi emergenze imminenti o in corso, in particolare rispetto a casistiche di competenza del Servizio Nazionale di Protezione Civile, precipitazioni, incendi nucleari, emergenze radiologiche, incidenti relativi a stabilimenti industriali, collasso di dighe, attività vulcanica. Attenzione, IT Alert non sostituirà le modalità di informazione e comunicazione già in uso a livello regionale e locale. Palma Nova, Giovanni Tormina, TGR Friuli Venezia Giulia. Dopo l'aggressione a una dottoressa e due infermieri in servizio a Monfalcone, il sindaco Anna Maria Cisint torna sulla necessità di maggiori tutele per il personale sanitario che opera nella struttura ospedaliera. In una lettera al direttore generale di ASUGE Antonio Poggiana e ai dirigenti del distretto sanitario, Cisint ha chiesto con urgenza la possibilità di dotare l'ospedale di pulsanti di soccorso per la segnalazione diretta alle forze dell'ordine in caso di pericolo e di personale preposto al servizio di vigilanza e controllo operativo 24 ore su 24. DASPO per le baby gang, stretta sulle armi, siti pornografici e violenti con divieto di accesso. Dopo gli episodi di violenza, sono le misure a contrasto della criminalità minorile allo studio del governo. Ne abbiamo parlato con l'autorità garante dell'infanzia, la friulana Carla Garlatti. I ragazzi imparano per imitazione e per ripetizione. Non si nasce stupratori, lo si diventa assistendo a episodi di violenza e maltrattamenti in famiglia, o sul web, o nei videogiochi. Dal suo ufficio di Roma, la friulana Carla Garlatti, autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, si dice favorevole a rendere inaccessibili ai minorenni i siti web pornografici e anche tutti i contenuti che incitino alla violenza. Ma i divieti non bastano, serve intervenire sugli adulti di riferimento. Aumentata la gravità dei fatti che viene commessa, l'efferatezza, e quello che mi preoccupa molto è che c'è da parte dei ragazzi una mancata percezione della gravità del fatto, ed è su questo che bisogna lavorare. E allora che cosa si deve fare? Innanzitutto lavorare su di un contesto che deve essere un contesto familiare e fare degli investimenti che devono essere investimenti educativi. I ragazzi devono essere educati a rispetto dell'altro, a comprendere quello che effettivamente hanno commesso. Uno strumento importantissimo che adesso è diventato anche legge, ma che i tribunali per i minorenni praticano da molto tempo, è quello della giustizia riparativa, che non significa che non si punisce chi ha commesso il reato, va in parallelo, però l'aspetto rieducativo, che è fondamentale, è quello che viene preso in considerazione, un momento nel quale il minore si rende conto di quello che ha fatto, è aiutato ovviamente da degli esperti, e la vittima non si sente sola, non si sente abbandonata. Il recupero passa attraverso una educazione che riguarda il ragazzo e riguarda il nucleo familiare e la scuola. La scuola, la famiglia, deve esserci una rete. Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia. Un diverbio a bordo di un autobus. La lite che continua a terra è uno dei due contendenti, un giovane che colpisce l'altro, una persona anziana, con violenti pugni e calci, fino a farlo cadere al suolo. È la scena che si sono trovati davanti alcuni giorni fa due agenti neoassunti del nucleo operativo territoriale della Polizia Locale di Trieste, in servizio in Viale D'Annunzio, che sono dunque intervenuti per sedare la lite. Alla vista degli operatori il giovane ha tentato di fuggire, raggiunto in via Salem, ha provato a scagliare contro gli agenti una grossa tavola di legno presa da un'area di cantiere nelle vicinanze. L'uomo, un 31enne cittadino kosovaro senza fissa dimora, con precedenti penali, è stato portato in caserma e successivamente al carcere del Coroneo. È doloso l'incendio di questa notte a Pasiano di Pordenone, in fiamme due auto di cittadini indiani, e si pensa che l'episodio potrebbe essere legato ai contrasti nella comunità Sikh sulla gestione del tempio. Un incendio sicuramente doloso, ma che non dovrebbe avere a che fare con le divisioni insorte in seno alla comunità Sikh del Pordenonese nelle settimane scorse in merito alla gestione del tempio di Pasiano di Pordenone. A dirlo sono gli investigatori al lavoro per accertare motivi ed autori del rogo che intorno alle 3 del mattino ha distrutto due auto di proprietà di cittadini indiani, membri proprio della comunità Sikh. L'incendio è avvenuto in un cortile non molto distante dal tempio di Pasiano. Sulle vetture bruciate, così come su un furgone parcheggiato da un altro lato del cortile, ci ha spiegato la procuratrice facente di Pordenone, Maria Grazia Zaina, sono state trovate tracce di benzina che fanno supporre l'origine dolosa del rogo. Le indagini affidate ai carabinieri, ha aggiunto la procuratrice, si concentrano sui rapporti personali e di lavoro dei proprietari delle auto, escluso categoricamente invece ogni legame con le proteste in merito alla gestione del tempio, che un mese fa avevano portato alla protesta, culminata in uno sciopero della fame, di parte della comunità Sikh. Anche Avtar Singh, vicepresidente dell'associazione che gestisce il tempio, che si era schierato contro la chiusura decisa dal presidente Kulvinder Singh, attraverso il suo legale afferma che l'incendio nulla ha a che fare con la protesta e che nessuno della comunità ha mai incitato a qualsiasi tipo di violenza. La diatriba in merito alla gestione del luogo di culto, conclude l'avvocato di Singh, si è peraltro conclusa con la mediazione tra le parti della questura di Pordenone, con un accordo che prevede entro il prossimo gennaio l'elezione del nuovo direttivo dell'associazione. Pordenone, Daniele Letti, GTGR, Friuli Venezia Giulia. Sull'autostrada A4 e sull'autostrada A23 si registrano code a tratti, rispettivamente tra Palmanova e San Giorgio di Nogaro in direzione Venezia e tra Udine Sud e nodo di Palmanova, a causa di un incidente non grave che ha coinvolto un auto articolato, una cisterna vuota e un mezzo leggero. L'impatto si è verificato poco prima delle 11 al chilometro 488 all'altezza del comune di Gonars. Sul posto la polizia stradale, i sanitari del 118, i vigili del fuoco, il personale di Autostrade Alto Adriatico e mezzi di soccorso meccanico. Due le persone ferite. La cisterna è stata spostata nell'area di servizio adiacente per maggiori verifiche da parte dei vigili del fuoco. Adesso parliamo di carenza di posti negli asili nido a Udine. Quest'estate ce n'erano disponibili 170, ma le domande erano già 350. Nel servizio la situazione anche negli altri centri della regione. In Friuli Venezia Giulia, a fronte di una platea potenziale di 22.000 bambini nella fascia età 0-3 anni, sono poco più di 7.000 i posti in asili nido per le famiglie, meno di un terzo. Quando apriamo le pre-iscrizioni a gennaio, ci dice chi gestisce alcune strutture a Trieste, i posti si esauriscono in pochi giorni e ci sono liste d'attesa anche di 50-60 persone per ciascun nido. Tra nidi a gestione diretta, esternalizzati, privati e convenzionati, nel solo capoluogo friulano quest'anno 391 domande ricevute, ma se ne riescono ad assorbire 172, il 44%. Nuove strutture sono in cantiere in diversi comuni, grazie anche al PNRR. A Udine, per esempio, si lavora per completare entro il 2026 la nuova scuola di Via Adige, 60 posti al nido, 120 nell'infanzia, fondi ottenuti dalla precedente amministrazione. L'attuale giunta è impegnata anche su un'altra direttrice, Federico Pirone, assessore all'istruzione, università e cultura a Udine. Stiamo lavorando con i gestori privati, i nidi privati, per aumentare la quota di posti pubblici all'interno delle loro strutture. Il dialogo è aperto, insomma, siamo fiduciosi che troveremo con loro un accordo a favore delle famiglie della nostra città. Tra chi si iscrive in lista d'attesa di più nidi in contemporanea e domande tardive, impossibile, indica la regione, quantificare con esattezza la domanda effettiva insoddisfatta. Un asilo nido privato può costare oltre 800 euro, 6.000 le domande per ottenere il beneficio di abbattimento rette regionale, uno degli strumenti di welfare in Friuli Venezia Giulia, ridotto però del 50% se si risiede da meno di 5 anni. L'accesso ad agevolazioni come questa o la carta famiglia in base al requisito della residenza è criticato da ASGI, l'Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione. Colpisce tutti indiscriminatamente, anche famiglie italiane intenzionate a spostarsi in regione. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. Sindaci a Trieste per un confronto con la regione sui pozzi artesiani. Entro fine novembre chi li ha in casa dovrà ridurne la portata o chiudere quelli inutilizzati. L'ordinanza sarà in vigore dal 30 novembre, previste sanzioni da 20 a oltre 500 euro. La regione, per combattere lo spreco idrico, dispone l'installazione di riduttori sulle fontane a getto continuo, i pozzi artesiani. Chiusi quelli non utilizzati, il calo costante delle falde e lo spreco di circa 1 miliardo di metri cubi di acqua all'anno, il 20% del fabbisogno civile italiano, inducono ad una prevenzione seria. Lo sottolinea l'assessore Scocimarro, che richiama ad un senso di responsabilità i sindaci dei territori non serviti da acquedotto. Fabio Scocimarro, assessore regionale all'ambiente. Siamo d'accordo nel ridurre questo spreco enorme e poi se la virgola la mettiamo davanti o dopo il congiuntivo, magari quello lasciamo perdere, non è compito né mio né dei sindaci a fare accademia giuridica, ma risolvere i problemi. I sindaci di Terzo d'Aquileia e di Porpetto eccepiscono sull'applicabilità dell'ordinanza in merito all'utilizzo dei pozzi artesiani regolamentato da una legge nazionale e sul controllo che spetta ai comuni. Andrea Dri, sindaco di Porpetto. Se c'è una legge dello Stato che legittima il privato a terebrare un pozzo, e la stessa legge stabilisce le condizioni nelle quali quella terebrazione può essere regimentata, la regimentazione può avvenire solo a quelle condizioni, che a mio parere in questo caso non ci sono. Paolo De Alti, direttore del Servizio Idrico Integrato della Regione, che ha firmato l'ordinanza, sul problema della difficoltà dei controlli casa per casa, ricorda che dai rifiuti agli eccessi di velocità, il rispetto delle regole è subordinato al buon senso, ma anche all'eventuale segnalazione. La Regione finanzierà l'acquisto di riduttori e valvole coprendo il 100% della spesa, fino a 300 euro. Si contano in Friuli Venezia Giulia quasi 50.000 pozzi artesiani domestici. Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. E a Sappada si conclude oggi una 3 giorni di studio sul mondo delle particelle fondamentali con un gruppo di scienziati e ricercatori internazionali impegnati sui dati di un esperimento al grande acceleratore di particelle del CERN di Ginevra. 503 chilometri separano Sappada da Ginevra. Lì sorge l'acceleratore del CERN che permette di verificare le teorie della fisica che nel Novecento hanno rivoluzionato l'idea dello spazio e del tempo e il modo in cui ipotizziamo sia iniziato l'universo. A Sappada si sono riuniti in 24 tra ricercatori e professori da tutto il mondo impegnati nel progetto CMS. Ricerca, ma non solo. C'è stato il tempo anche per socializzare e per una camminata con tanto di pranzo e rifugio, incontri che la pandemia aveva interrotto. L'organizzatore Marco Zanetti. La collaborazione è fondamentale e non può ridursi a degli incontri formali che si possono avere con delle riunioni predefinite, impostate, in cui c'è molto poco spazio per la libera discussione. Sappada, poco conosciuta tra i partecipanti, più noto il marchio delle Dolomiti. La professoressa Thea Arestad, norvegese di origine, ne ha approfittato per una corsa ad alta quota. Tra nomi importanti quello di Cristina Botta, tra i più accreditati studiosi al mondo della fisica delle particelle. 11 anni fa, anche lei era nel gruppo che scoprì il famoso bosone di Higgs. Oggi il settore è in una fase di transizione. Non abbiamo più un'indicazione precisa che ci viene dalle teorie per cosa cercare, come avevamo invece prima della scoperta dell'Higgs, ma ci sono un sacco di cose che non abbiamo ancora capito e quindi è impensabile pensare che non ci sia qualcosa da scoprire. Per Sappada, eventi legati a studiosi di fisica o di altre materie potrebbero ora farsi più comuni dopo i contatti avviati. Monica Bertarelli, direttrice del Consorzio Sappada. Nel fuori stagione, in realtà, manifestazioni e iniziative come queste, quindi con un numero calibrato di partecipanti, sono proprio tagliate su misura per noi. Convegni, meeting, workshop che possono ospitare 40-50 persone rappresentano per noi un prodotto turistico molto importante, ripeto, in particolare nel fuori stagione. Sappada, Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Vediamo il tempo, cielo sereno su tutta la regione e con le temperature registrate alle 11 a Trieste 25 gradi con vento da est-nord-est bora a 30 km orari con raffiche a 58 km orari, mare mosso con temperatura di 24 gradi e mezzo, a Udine 26 gradi, a Gorizia 25 e mezzo, a Pordenone 25, Tolmezzo 21 gradi e mezzo, Forni di Sopra 19 gradi e mezzo, Piancavallo 18, Tarvisio e Sappada 16, sul Monte Zoncolan 14 e mezzo, sul Lussari 12 gradi, a Grado 24 gradi, a Lignano 22 gradi e mezzo con temperatura del mare di 23 gradi e mezzo. E ora le previsioni dell'ARPA per questo pomeriggio e la sera. Cielo sereno con bora moderata su bassa pianura, zone orientali e costa dove la bora potrebbe essere temporaneamente sostenuta in zona Trieste. Domani cielo sereno con bora moderata su bassa pianura, zone orientali e costa, temporaneamente sostenuta a Trieste, al mattino nel fondovalle Tarvisiano possibili nebbie o nubi basse. La cultura e gli spettacoli con il cartellone appena presentato della prossima stagione sinfonica del Verdi di Trieste. Un cartellone di 8 concerti più uno con un'esplorazione a 360 gradi del panorama musicale occidentale, da Johann Sebastian Bach a Luciano Berio. Il Verdi di Trieste presenta il suo programma sinfonico e anche il suo nuovo direttore musicale. Il trevigiano Enrico Calesso, che dirigerà l'ultimo dei concerti a dicembre in un programma pensato per celebrare il centenario della Coscienza di Zeno con il pianista Massimo Gon. L'idea che Trieste debba testimoniare anche con il suo teatro la sua natura principalmente mitteleuropea, questo centro straordinario di cultura di diverse lingue, lingua tedesca, la lingua slava, la penisola italiana, e farne di nuovo con il teatro un polo di attrazione e di riflessione per l'attuale momento culturale, l'attuale situazione dell'Europa in quanto tale. Interpreti come Antonio Meneses e Angela Hewitt nei due primi appuntamenti in collaborazione con la Società dei Concerti e poi Pinkas Zuckerman, Francesca Degua, Alessandro Taverna, solo per citarne alcuni. Il concerto extra è dedicato a Ezio Bosso nel giorno dell'anniversario della nascita, è affidato al pianista Francesco Libetta ed è in programma mercoledì prossimo. Punti di partenza per Calesso anche in un lavoro che punta ad attirare verso la grande musica anche chi abitualmente non la frequenta. la grande tradizione della musica classica, lirico-sinfonica, ha ancora tanto da dire ai giovani e si tratta appunto di intercettarli là dove si sono, con la loro sensibilità, senza snaturare il messaggio. Una grande sfida che secondo me è fondamentale. Trieste, Andrea Vardaniga, TGR Friuli Venezia Giulia. Sono Thomas Hippler per il Governo del Cielo e Vittorio Cocco per il Generale dalla Chiesa i vincitori ex aequo del premio Friuli Storia 2023, assegnato ai saggi storici che coniugano rigore scientifico e potenzialità di diffusione oltre la cerchia degli addetti ai lavori. Hippler ha ripercorso la storia dei bombardamenti aerei dai suoi albori fino ai nostri giorni, mentre Cocco, attraverso la bibliografia del generale Carlo Alberto dalla Chiesa, ha restituito il ritratto di uno degli uomini simbolo dell'Italia repubblicana. Il premio festeggia quest'anno il suo decennale con una giuria popolare di 500 lettori in tutta Italia. La terza finalista, selezionata da una giuria scientifica tra 93 opere in gara, includeva anche il saggio La guerra del silenzio dello storico Andrea Riccardi. Al via oggi a Casarsa la sesta edizione della Scuola Pasolini, a cui partecipano 25 laureati e dottorandi di diversi atenei d'Italia ed Europa. Quest'anno la scuola è dedicata al tema Pasolini e le forme del teatro. Abbiamo chiesto perché approfondire proprio il teatro di Pasolini a Paolo Desogus, direttore della scuola. Il teatro è uno degli ambiti in cui Pasolini si è cimentato. Tuttavia il teatro è stato trascurato da parte della critica e spesso non viene considerato nel dovuto modo quando ci si occupa di Pasolini. Attraverso il teatro si possono comprendere alcuni aspetti della poetica pasoliniana, alcuni temi, alcuni nodi. Uno di questi è quello della corporeità, che svolge un ruolo importante in Pasolini, seppure nel teatro venga gestita in una maniera del tutto originale rispetto a quanto accade ad esempio nel cinema. E poi il rapporto tra la parola, il gesto e ancora una volta il corpo. Quindi ecco, attraverso il teatro si possono scoprire degli aspetti che si irradiano, dialogano con tutto il resto dell'opera pasoliniana. Quindi ecco, per valorizzare il teatro ci consente di dare uno sguardo sul corpus pasoliniano del tutto originale, ma allo stesso tempo capace di darci un'immagine nuova dell'autore. Avete avuto interesse da parte di laureati e dottorandi? La scuola da alcuni anni a questa parte attira sempre di più i giovani ricercatori. Nonostante questo ci sono comunque dei laureati anche della triennale, perché riteniamo importante che ci siano anche degli studenti più giovani. Ci sono poi naturalmente degli studenti iscritti alla laurea magistrale, però ecco, sicuramente in questa edizione il numero dei dottorandi è prevalente. A Opicino oggi un incontro pubblico per confrontarsi sulla nuova programmazione 2023-2027 del Carso Triestino e Goriziano. Ancora attivo il questionario online La Vendemmia delle Idee, che ha raccolto già 250 risposte di cittadini, da cui emerge come priorità la salvaguardia della biodiversità e della specificità del Carso. L'appuntamento è nella sede della ZKB, la banca di credito cooperativo, alle 18. Ed era l'ultima notizia per questa edizione del giornale radio regionale. Alla parte tecnica Andrea Fontanot e Riccardo Stoici. In redazione ha collaborato Laura Sarasini. Dalla Livia Liberatore e Rita Micoli, grazie per l'ascolto, l'augurio di un buon pomeriggio. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.